Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Eccoci qua in questo fatidico 23 giugno. Il giorno più lungo, questa è la frase più gettonata. Il giorno più lungo detto. Dell'Europa. Dio mio, lo sbarco addirittura del D-Day. Però insomma, vabbè, i britannici decideranno. Io li invidio qualunque cosa decidano. Questa è la mia opinione. Perché possono decidere. Comunque sia, dal loro punto di vista, secondo me, qualunque sia l'effetto del sì e del no, ecco, li invidio comunque. Ma questa è la mia opinione. Oggi, santi di oggi. I santi di oggi vedono un santo, Giuseppe Cafasso, perché per chi è nato a Torino, ha frequentato i Salesiani e Don Bosco, sa che è un santo di riferimento per questo tipo di impegno sociale, perché nel Torino proletaria dell'Ottocento eccetera c'era molto da fare per chi stava molto male. Infatti non a caso è il patrono dei carcerati, dei condannati a morte addirittura, quindi è un santo di quelli che mi piace molto, un santo sociale. Oltre a San Giuseppe Cafasso, santi come Etelreda, Liberto, Valero. Questo San Valero è una storia particolare che mi ha colpito, perché è un sacerdote belga che alla fine del 1100 viene ucciso da un nipote sacerdote anch'egli, e lo hanno fatto santo. Perché l'assassino invece speriamo di no, ma a volte mi imbatto quando studio questi santi in cose un po' singolari. In questo giorno comunque la Francia, per fare la storia europea, si arrendeva ai nazisti, ma nel 1969, pensate, nasceva il Manifesto e c'era la prima assemblea parlamentare in Islanda nell'anno del Signore 930. Sono passati più di 1100 perché va bene agli europei. Hai visto? Perché lo dicevo, perché ieri sera, vai, vedi, questi qua hanno una storia dietro, qui quelli del pallone non se la ricordano, ma loro insomma hanno una bella storia. Però bel gol al 90esimo, dai. Non so se hai visto il distacco con cui il cronista islandese ha commentato. No, beh, è una roba a cui confronto i radiocronisti sudamericani. No, al contrario, sembra un brasiliano argentino colombiano al cubo che urla. Me lo davo più per glaciare, che banalità. Questa è banalità. Una roba, sfonda le orecchie invece, devo dire allora, la verità. Allora, cari ascoltatori, noi parleremo di un po' di cose, sicuramente di Brexit, come sapete questo è il nostro porto franco delle vostre opinioni. All'800 24 00 24 parleremo di Brexit, le urne sono aperte. Ma Oscar, ci ha anche colpito questa frase che il garante per l'infanzia in Campania ha detto due giorni fa. Cioè ha detto: ci sono intere zone della Campania in cui l'incesto è elevato a normalità. L'incesto, cioè rapporti sessuali all'interno della famiglia. È una frase che esprime, voglio dire, una condizione da paese premoderno. E che siccome viene da un'autorità, cioè viene sulla base di segnalazioni, studi, ricognizioni, casi. Ecco, allora questa cosa qua a me ha fatto orrore, ma ha fatto orrore sì come giornalista, ma anche come cittadino, come padre, perché ho l'impressione che poi, l'ho avuto spesso questa impressione, sia un po' vera in aree del paese non così trascurabili, e sia per così dire un non detto che molti poi preferiscono mettere sotto il tappeto, per così dire, cioè fare finta di non vedere che c'è una parte della società italiana in cui questa cosa è l'iniziazione tragica al sesso riservata da parenti ai piccoli. Nell'omertà, Dio molto santo. Spesso, nell'omertà, nel silenzio, e sarà il nostro ospite, sarà tra poco con noi Cesare Romano, garante dell'infanzia e adolescenza alla regione Campania. Anche perché dopo una frase del genere ci aspettavamo un putiferio, che una persona, non uno qualunque, ma uno che è lì per controllare, che secondo la mia cosa, esperienza di garante, questa è la condizione, invece praticamente silenzio. Vabbè, ne parleremo tra poco ovviamente con lui. Ieri era il giorno dello scoop della Gazzetta su Alex Schwarzer. Avete visto, cari ascoltatori, se non l'avete visto ve lo facciamo sentire. Comunque Schwarzer questa volta non è stata Oscar come l'altra volta, si è presentato in lacrime. Stavolta dice cenere no sul capo. Non ha nessuno evocato la parola complotto, ma insomma siccome la positività c'è, ma lui dice: io stavolta non ho fatto nulla. Se non è un complotto, sentite Schwarz. Stavolta io non ho fatto nessun errore. Io oggi non ci sarà nessuna scusa qua. Non mi devo scusare con il mio allenatore e con chi mi è stato vicino, perché io non ho fatto nessun errore. Qua si andrà fino alla fine. Io, probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io. Qualcuno, qua sai, quando uno dice qualcuno non vuole, comunque complotto no, però messa giù così. Io ho visto anche Teotino sul Messaggero, qua, qui non si riesce a capire, c'è un enorme pasticcio, ma non si riesce a capire quale sia il verso di questo pasticcio, anche cioè, perché la positività è accertata, esatto, se sia cioè il tentativo di negare l'innegabile, o se sia effettivamente una roba nei servizi di accertamento che non stanno in cielo né in terra, ma che però purtroppo avviene. Mi hanno molto colpito anche le parole di Donanti, cioè di colui al quale si era affidato come prova certificata di fronte a tutta Italia e tutto il mondo, che quindi l'antidoping era una scelta di vita oltre che di atletica, no? E lo stesso Donati usa parole del tipo dicendo: mi stanno presentando il conto perché io sto sulle scatole moltissimi. Cioè, non lo abbandono, sto con lui. Che da un'altra conferma, da un altro punto di vista, però una conferma di un ambiente complessivamente però avvelenato, nel quale non c'è la possibilità di distinguere su vicende come questa, dove dovrebbe essere invece autoevidente che cos'è il giusto e cos'è il no. E invece ma anche i commenti mi ha colpito, oltre che quello di Donati, anche i commenti del più dei giornalisti testimoniano un ambiente di veleni, di opacità, di dubbi insinuati ormai nella testa di tutti. Devo dire, con la ciliegina poi sulla torta del medico tedesco che si presenta ieri al Quirinale perché voleva fare un test, come si può fare improvviso senza preavviso, a una marciatrice azzurra, che però in quel momento era da Mattarella, e che rimane senza parola di fronte al fatto che gli escludano l'accesso al Quirinale, che era stato regolarmente comunicato, perché sapete che gli atleti devono comunicare le loro reperibilità, no? E quando lo fanno entrare il medico tedesco inizia a dire: ah, ma è proprio vero che gli italiani allora coprono doping? E i corazzieri gli devono spiegare. Non so se la dichiarazione sia stata proprio questa, ma i corazzieri gli ha fatto presente che non si entra al Quirinale bussando come, o citofonando come un testimone di Geova, a un citofono. Capisci che però anche questo particolare rende la vicenda tutto di quelle che ti fa grattare la testa. Sì. Io lo dico, cari ascoltatori, però deve esservi chiaro: noi è che non parteggiamo né perché sia cambiato, ma quello che ci colpisce è che non si riesce a capire un piffero di quello che dovrebbe essere evidente, dov'è la verità e dove sono i fatti. Perché a Colonia, dove hanno testato le urine, dicono è assolutamente certa la positività, e lo stesso Donati, l'ho ascoltato in conferenza stampa, ha detto: non mettiamo in dubbio la serietà del risultato, però perché questa urina è stata controllata 5 mesi fa e non aveva dato nessun segnale, poi è stata ricontrollata 5 mesi dopo, e allora lì però, ma allora è un complotto? No, noi non lo diciamo, ma vogliamo capire. È tutto un po' misterioso, misterioso. Dire, l'unica ipotesi che da profani possiamo avanzare perché in caso contrario che cosa può voler significare? Che solo dopo 15 stiamo parlando di, a quel punto, di interventi con sostanze dopanti di tipo testosterone così raffinato che c'è bisogno di 15 diversi principi attivi per far rilevare. Tanto, caro Oscar, arriva un messaggio: leggete il libro di Danilo Di Luca sul doping per capire molte cose. Lo abbiamo aspettato settimana scorsa qui in studio Danilo Di Luca, caro Paolo. Come vedi, i nostri comunque ascoltatori sono. Quindi, se non è così, l'unica altra ipotesi è quella che hai avanzato tu, e cioè che venga avanzato il dubbio che qualcuno ha purtroppo truccato quelle ma di fronte a questa domanda, complotto, in conferenza stampa allora hanno detto: no, non ci spingiamo, complotto è una parola grave, è una parola pesante, è una parola... Vabbè, insomma, a me sembra abbastanza implicito, ma esplicito, che Schwarzer, quando dice non mi vogliono i giochi di Rio, punti anche un po' l'accusa contro i vertici del CONI e della Federazione Italiana, perché il problema sollevato da alcuni altri atleti italiani fin dall'inizio c'è stato quello: non ce lo vogliamo, e come no. Però così si fa cadere fango su tutto e tutti, ecco. Però staremo a vedere. Intanto, mentre noi ci occupiamo del caso di Alex Schwarzer, ci sono 46 milioni e mezzo di cittadini britannici che possono votare già adesso. Allora, la nostra Cristina Marconi, che già ieri abbiamo scomodato, giornalista per il Foglio, il Messaggero. Buongiorno Cristina, ben ritrovata. Buongiorno. Eccolo qua. Allora, sono aperte le urne. Piove. piove tantissimo. Che notizia! Piove che in maniera infelicitante, che ma potrebbe quasi impedire ad alcuni di andare alle urne, ma tanto. E non smetterà. Non smetterà. Ma davvero gli inglesi e i britannici si faranno condizionare dal meteo come noi in Italia? Oddio, però è quasi un acquazzone romano quello di oggi, insomma è gli elementi. Vabbè, questo si chiama nostalgia, che stiamo, che ci sta rivelando che è nostalgica, però detto questo, no. Figurati se in quel paese di rocciosi nordici un po' d'acqua, no. Vedremo. Comunque sì, 46 milioni e mezzo, ieri qualche sondaggio un po' più ottimista sul Remain, 6 punti di vantaggio, ma gli indecisi sarebbero ancora il 17%. Ah. Quindi però, siamo ancora sono andati a iscriversi in un numero che ha stupito tantissimi, quindi tanta voglia di votare c'è, a quanto pare. Eh sì, c'è voglia di votare, secondo me i nipotini che hanno scritto i nonni che, insomma sì, c'è Glastonbury, ecco, questo è un altro problema, chissà se si sono ricordati tutti quei ragazzi di mettere il voto postale, di chiedere di votare in qualche altro modo, perché sennò metà dei giovani inglesi in questo momento sono lì sotto la pioggia per l'appunto. E poi niente, ci sono le comunità immigrate, ieri per esempio una ragazza che fa volantinaggio per il Remain mi diceva che la comunità turca è tutta a favore del Leave. Ebrei ortodossi metà, cioè i turchi non ho capito che vogliono entrare nell'Europa, vogliono che però la Gran Bretagna se ne esca dall'Europa. Misteri di questo referendum in cui tutto quello che uno pensava di sapere non è, cambia e quindi, ma come si capirà? No, perché intanto i bookmakers danno, se non sbaglio, in vantaggio il Remain, e in genere i bookmakers, a parte quest'anno con la vittoria dell'Leicester in campionato, ci azzeccano. Insomma, è così, cioè, per i bookmakers? Sì, i bookmakers sono ottimisti in generale, però anche le borse di solito ci azzeccano, che dire, qui tutti sembrano essere un po', tutti quelli che hanno qualche posizione di rilievo sono abbastanza ottimisti, però al tempo stesso... Però temono, diciamo la verità, Cristina, che temono la sorpresa dal basso, l'Inghilterra è profonda, temono un sonoro, sia pur magari in percentuale contenuto, vaffanculo alle classi dirigenti, perché questo poi è la grande... Basta che non lo scrivano sulla in quel caso non è nulla. Devono firmare Remain però o Leave. Però è evidente che è così, ed è evidente secondo me anche che il tono sgangherato usato da politici britannici, non sto dicendo di Occupy, dicendo il personale da cui non me lo sarei aspettato, cioè io che Michael Gove usasse, ministro della giustizia del governo Cameron, dicesse che gli argomenti usati per il Remain gli hanno ricordato i nazisti che nel 1930 insultavano Einstein, dando a se stesso dell'Einstein e dicendo che chi è per restare in Europa è un nazista anti-ebraico, beh, io dal ministro della giustizia e del governo Cameron non me lo sarei mai aspettati. Ma secondo me, Cristina, questi toni sgangherati sono usciti fuori proprio perché vellicano l'Inghilterra, quella delle Midlands, quella della gente che non è che sta attenta lì a farsi il conto. No, ma il problema è che, voglio dire, come può pensare che Gove sia un idolo anti-establishment? È chiaro, capito, che deve cercare di parlare come esatto, l'uomo del popolo, poi non ci riesce a fare queste gaffe. Povero, lo si vede proprio come che dovrebbe essere. Cioè, non è un non è, cari ascoltatori, un leghista delle valli, come dire, no, è proprio no, è l'incarnazione dello spirito dell'establishment britannico, e poi mi dice e parla in questo modo. Assolutamente. Comunque staremo a vedere, domattina a quest'ora sapremo qualcosa. Da che cosa lo capiremo? Perché oltre che dal tuo tono, oltre che dalle tue notizie che ci porterà, da dove e come capiremo, una volta che saranno chiuse le urne, dove andranno i risultati più o meno? Allora, i risultati cominceranno con degli exit poll su, pare che Sky abbia qualche cosa, come forse dicevo ieri, banche e hedge funds hanno già prenotato exit poll, comunque insomma ci sarà sicuramente grande circolazione di informazioni, e poi BBC sicuramente, quando ci sarà la commissione elettorale annuncerà i risultati, insomma avremo tutti quanti. Ma io non credo che dovremmo davvero aspettare le 9 di domani mattina. Se si dice e se si segue si dice che il voto è sul filo di lana per il Leave or Remain, forse sì, nel momento in cui dovesse invece vincere una delle due in maniera preponderante si saprà nella notte. Io scommetto sull'efficienza. Questa è la mia opinione. Il commento sull'efficienza, quindi siccome non aspettiamo, perché in Italia tutti fino a domani mattina non si sa nulla, col sorriso autocompiacente, no? Però vediamo. Hanno smesso vediamo di contare le schede in Italia? Ecco, non credo, ci sono ancora aperte le schede dei ballottaggi e del primo turno in alcune sezioni italiane. Cristina, ti ritroveremo domani mattina, grazie Cristina Marconi, a domani, piove in Gran Bretagna, sentiamo Marco. Però il governo ladro è nostro, sempre. Marco ci chiama da Firenze, piove in Gran Bretagna, governo ladro in Italia, insomma. Addirittura Marco, eccoci. Buongiorno a tutti e due, buongiorno a tutti e due. Faccio una premessa veloce. Sono d'accordo con rimanere in Europa. Mi auguro anche la Gran Bretagna possa rimanere in Europa, l'Inghilterra in special modo. Però una cosa fatemela dire. Io obiettivamente il desiderio mio sarebbe di bastonare nei denti quei coglioni della Commissione Europea. Perché gente che ha distrutto la dignità delle persone, come fanno loro, con delle regole astruse, assurde e stupide, Dio, non esiste. E dico questo velocemente, mi hanno colpito due servizi, che non riguarda l'Europa, ma l'America. La catena della macellazione dei polli, controllata da tre multinazionali che per me sono il cancro di tutte le società, dove le persone hanno il pannolone perché non possono andare in bagno. Se questo deve essere il destino anche nostro, da una parte vorrei l'Inghilterra uscisse, mi fa paura sotto altri aspetti, vorrei fosse un'Europa per i popoli e dei popoli, non di questi coglioni delle multinazionali. Vabbè, a parte le parole, poi utilizzi la parola cancro per cose serie, quando è un cancro. No, ma io sto dicendo della società, e mi permetterei idem, però, purtroppo, perché sai, il cancro per chi ce l'ha come malattia non l'ama molto come metafora, e ha ragione. È una metafora da utilizzare, da non utilizzare, questo secondo me. Okay. Però, insomma, questa è la sua opinione, grazie Marco, abbastanza contro multinazionali, vabbè, il TTP, immagino, il trattato del commercio tra l'Atlantico, però insomma, diciamo, l'idea che i membri della Commissione Europea siano degli oligarchi al servizio della multinazionale, che è uno degli argomenti usati, come vedi, nelle campagne di tutta Italia e tutto il mondo, ma forse anche contro, in Gran Bretagna, tutto il mondo, contro l'idea che la globalizzazione sia una specie di fili mossi da abili orchestratori di marionette. Però io ho un'idea un po' diversa, ma comunque rispettiamo l'idea di tutti. C'è Paolo che ci chiama da Siena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi riferisco semplicemente a un articolo di Ambrose Pritchard-Ribbons del Telegraph. Immagino Oscar conosca. Conosco bene, anche di persona, lo seguo da anni. Diciamolo per chi ovviamente non è tenuto a sapere di chi stiamo parlando, una pena accomunata dell'economia sia privata che pubblica, sia finanziaria che pubblica, provo a dire, motivato a mille contro l'Unione Europea da sempre, ecco. Però le motivazioni non mi sembrano così strumentali come invece sento talvolta anche nella stampa italiana e non solo italiana. Ma Evan Spreacher non è uno sprovvisto di argomenti seri, come sa se lo segue. Mi sembra una persona intellettualmente onesta, più o meno quasi quanto voi, insomma. Ma al di là di questo pensiero personale, ecco, credo che si possa, io che sono favorevole al Brexit pur non votando, dico che è un confronto fra chi è favorevole alla democrazia e quindi vuole il Brexit e chi teme che le democrazie, e quella inglese, ma non solo quella inglese, vengano messe a rischio da questa Europa, come si diceva prima, troppo proposta e troppo ben disposta a poteri forti. Paolo, qui sarebbe un lungo discorso da fare che in Italia non si fa fare mai, perché ti dicono che è troppo lungo, troppo tecnico, eccetera, eccetera. Io dico sempre, la posizione britannica, che è stata condivisa dai conservatori come dai laburisti nei decenni, era quella di dire la nostra idea di Europa è un'idea che non deve essere uno superstato centralizzato, dirigista, omologatore, deve essere un'unione in cui i singoli sistemi hanno una libera convergenza per il mercato, la libera concorrenza, ma senza un super governo dall'alto, omologatore né di spesa né di tasse, eccetera, eccetera. E in questo, secondo me, loro hanno tratto il meglio per sé, ma non hanno affatto attentato all'Europa, come dicono Prodi, Monti, che dicono tutte le volte che c'è un passo avanti, il Regno Unito dice no, eccezione e si ferma. Io credo che loro abbiano visto fin dall'inizio i difetti costitutivi dell'Europa, abbiano preso il meglio per sé, ma siano anche una lezione. Questa, però, è la mia visione minoritaria. Io la penso come lei, cioè, io mi esaltai quando nell'ottobre del 9 la Thatcher dopo il Consiglio Europeo che avviò le tre fasi dell'euro, che poi dopodiché, dopo 10 anni è nato, nacque l'euro fisicamente, ma perché fu deciso quel giorno, disse alla Camera dei Comuni: su queste basi, cioè una moneta che non rende conto ai diversi parlamenti, né a un Parlamento centrale, rende conto, non prende ordini, la mia risposta, e fu la sua risposta miticamente tre volte ripetuta, no, no, no, con la Camera dei Comuni in piedi, quello non è anti-europeismo, i fatti successivi le hanno dato ragione, però questa è la mia opinione. Intanto vedi anche Oscar, anche da Londra ci scrivono gli ascoltatori, che siamo ascoltati anche da lì, ci si può ascoltare sul sito e con l'applicazione, ormai in diretta ovunque, un saluto da Londra, qui si sta col fiato sospeso, Giacomo ci dice altro che... E perché per gli italiani che stanno lì può cambiare molto, per chi studia lì, per chi ha accesso diciamolo, al welfare lì. È stato detto spesso, ma va ribadito. Non è che se dovesse vincere la Brexit domani la Gran Bretagna sarebbe fuori dall'Unione Europea, ci sarebbero tutta una serie di negoziazioni che partono, avanti anni, eccetera. Però l'idea di tagliarvi il welfare a voi, cari italiani, che state lì a studiare, a lavorare, a fare pizzaioli, c'è. Ognuno giustamente guarda il proprio interesse. Tra poco, dopo la pubblicità, avremo ospite allora il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania, che ha detto questa frase terribile, cioè intere zone della Campania in cui l'incesto è elevato a normalità. Oh, eppure Dio. Nel silenzio generale è passata un po' così. Ieri era da Simone Spezia, qui aveva Radio 24, cioè quando la vergogna diventa connivenza, questo è la mia simbolo. Esatto, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Allora, caro Oscar, eccoci qui. Allora, che facciamo di lavoro? Ci occupiamo di politica, economia, finanza, eccetera. Poi ogni tanto arrivano questi momenti, queste frasi, no? Queste notizie. Che ci obbligano a fare i conti con degli enormi aree grigie, nere, no? Sì. Della mancata evoluzione. Io parlo di mancata evoluzione antropologico-culturale corrente con la modernità. Questa è la mia maniera, forse sbaglio, non voglio fare maestro a nessuno, però a me terrorizza. Ecco, no, ma per carità, ma quando 2 giorni fa il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania, Cesare Romano, ha detto, presentando uno studio, che ci sono varie sacche in Campania, intere zone in cui l'incesto è elevato a normalità, cioè si parla quindi di rapporti sessuali all'interno delle famiglie, con vittime, soprattutto bambine tra i 6 e 10 anni, beh, insomma. Cesare Romano, buongiorno, lei è il garante. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ma intanto, dopo che lei ha fatto questa denuncia, ecco, è successo qualcosa? Cioè l'ha chiamata qualcuno? Direi che si sta muovendo l'Italia intera, le istituzioni centrali comunque si stanno interrogando, stanno cercando di capire, diciamo che il messaggio è arrivato, che poi fondamentalmente il mio compito è esattamente questo, tutelare i minori e far presente delle situazioni che vanno sicuramente contrastate. Lei ha parlato di 200 casi, però siccome molti sono violenze sommerse, ovviamente anche nell'omertà, certo, nel silenzio, certo, potrebbero essere anche di più, quindi. Ma infatti io credo che questa prima ricerca o rapporto debbano seguire altri strumenti maggiormente mirati alla rilevazione di questi dati. È stato facile fare, è stata collaborativa la comunità campana in questo rapporto? Tranne la Curia Arcivescovile, che ci aveva, diciamo, promesso di collaborare, di somministrare i questionari anonimi a tutte le parrocchie della Campania, ma non abbiamo ricevuto neanche, cioè, non l'hanno un questionario. Fatto. No. No, cioè, è stato distribuito, ma non è arrivato niente in risposta. L'ultima risposta della Curia, che mi sembra sia di ieri, che ha inviato una lettera in cui diceva che siamo stati noi che non ci siamo fatti più sentire, ma che c'era la disponibilità, ovviamente mentono. Mi dispiace dirlo, ma mento. No, ma questo come, secondo lei, senza dare giudizi, eccetera. Ma non è un giudizio. No, aspetta, io avanzo un'ipotesi. Sì, potrebbe essere un elemento, ma tra i tanti, però, che comprova questo diffuso, comprensibile per certi versi, per altri no, perché anzi, ai miei occhi, e comprova l'atteggiamento di imbarazzata copertura, che resta come atteggiamento culturale, personale, di fronte a fenomeni di cui tanti, per ragioni diverse, in quel caso perché fanno i confessori, perché parlano con le mogli e con le madri in confessionale, quindi i preti, ma tanti pezzi della società vengono a contatto con questa sensazione, che è più una sensazione del fatto che il fenomeno sia ancora diffuso, cioè che l'iniziazione sessuale sia fatta da maschi su bambini e bambine piccole e così via. Lo abbiamo visto nell'inchiesta tragica di quella povera bambina in quel condominio. Esatto, no? Allora, come si vede, non sono cose... Lei ha levato una voce istituzionale, ma non sono cose di fronte alle quali uno può dire "Toh, non l'avrei mai sospettato". Quello che le chiedo è: come si fa ad affrontare e sconfiggere invece questo atteggiamento culturale che secondo me collega vari mondi diversi, per ragioni diverse, magari qualcuno crede di far bene, secondo me è orrore perché fa male, però io credo che non siano tutti in malafede, molti dicono semplicemente come si fa, mio Dio, se non si commettono reati io perché devo intervenire, è una cosa che a me fa orrore ma penso che molti la pensino. Guardi, io credo che il fenomeno vada sicuramente combattuto attraverso tutte le istituzioni preposte a. Cominciamo a dire che dove ci sono sacche di enorme degrado, come in quartieri particolarmente disagiati, privi di servizi e culturalmente degradati, lì è molto più facile perché manca una cultura del rispetto, manca una cultura della persona, i bambini sono considerati ancora oggetti di proprietà esclusiva. Allora, quindi va fatta sicuramente un'opera da un lato di rimozione del degrado in alcune zone, dall'altro sicuramente va fatta una campagna di sensibilizzazione, una campagna culturale. Io condivido la sua premessa iniziale, è un fatto antropologico-culturale per un certo verso. Dall'altro ci sono poi le devianze sessuali, che è ancora un altro tipo di discorso, quello è trasversale. Appartiene a tutti i ceti sociali, in tutti i quartieri, e va contrastato con altri sistemi, altri mezzi, ma sicuramente un'informazione attraverso le scuole ai bambini e un supporto alle famiglie. Tra l'altro ricordiamo, lei, Cesare Romano, è il garante dell'infanzia. Siccome sono stati citati in questo studio quartieri di Napoli, Caivano, le Madonnelle ad Acerra, anche le Salicelle ad Afragola, noi abbiamo chiamato il sindaco di Afragola, che gentilmente qui so che è a rispondere di una cosa così grave, così forte, così intensa. Domenico Tuccillo, buongiorno, il sindaco di Afragola. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Sindaco, attraverso i servizi sociali un comune ha le antenne per verificare le situazioni. Come coglie lei e come raccoglie? Anche se però molti operatori ci fanno pure sapere che se io dovessi mettermi a chiedere esplicitamente ai ragazzi e bambini, mi ha scritto un maestro di scuola, dice, se io mi dovessi mettere a chiedere ai ragazzi qualcosa di vagamente volto a raccogliere informazioni, ma potrei, vi capita o sentite dire qui ci sarebbe l'insurrezione, metterebbero le mani addosso? Non è mica così facile. Non è facile. Sindaco, lei che risponde. Indubbiamente Giannino coglie un punto sensibile e penso, d'altra parte, insomma, da quello che appunto riferisce il garante, i dati che loro raccolgono sono dati che riguardano il sommerso, quindi sono dati che, a quanto capisco, sono stati raccolti in modo anonimo, in modo non esplicito. Quindi evidentemente va fatta un lavoro che deve essere, diciamo, deve puntare soprattutto alla riqualificazione dei servizi in quel territorio, in quello specifico quartiere. Su questo, per esempio, noi come amministrazione abbiamo fatto un lavoro molto intenso sulle Salicelle, abbiamo per esempio, tra le altre cose, inaugurato un asilo nido qualche mese fa, proprio lì nelle Salicelle, che è tra i più belli asili nido della Campania. Però sindaco, se è difficile intercettare adesso che c'è un rapporto del garante che indica le Salicelle di Afragola come una delle zone più a rischio, che fa lei? Cioè, come intende? Perché è un problema che riguarda tutti, lei, la sua comunità, noi, gli italiani. Questo non c'è dubbio. Noi abbiamo, ripeto, con la scuola già avviato una serie di attività abbastanza intense. Abbiamo aperto questo asilo nido che è stato realizzato, proprio inaugurato qualche mese fa. Abbiamo la stessa cooperativa che lavora nell'asilo nido, ha avviato altre progettazioni che ha presentato a Fondazione Sud di Carlo Borgomeo per avere implementati altri progetti che devono sempre andare a incidere sull'infanzia e sul sociale. Lo stesso Borgomeo è stato alle Salicelle, perché io dopo poco tempo dalla mia elezione volli che lo invitai a venire alle Salicelle a guardare quella realtà per capire come Fondazione Sud poteva dare una mano ad Afragola e alle Salicelle per interventi di questo tipo. Diciamo almeno una cosa, è stupito da questo studio che indica quel quartiere? Questo francamente è una cosa che mi ha colto di sorpresa. Non avevo questa percezione, né gli uffici mi danno un riscontro in tal senso, però penso che sia sicuramente una cosa da, a questo punto, da guardare con la dovuta attenzione da approfondire adeguatamente. Guardate, sia sindaco che garante, c'è un ascoltatore che ci chiama, Raffaele da Milano, mi dicono vuole intervenire su questo tema. Raffaele, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io chiamo da Milano, ma sono campano. Va bene. Dica. No, innanzitutto vorrei capire l'origine di questo studio, cioè questo garante che parla di fatto antropologico e parla della Campania. Già questo è comunque il garante da censurare. È il garante per l'adolescenza. Scusi Raffaele, è il garante per l'adolescenza in Campania. Di che cosa deve parlare? Capito, del Molise deve parlare. Del Veneto deve parlare. Che quando parli di un quartiere degradato parli della Campania, è quel quartiere. Ma noi di quello cioè lei dice che c'è una c'è il rischio di generalizzazione. Ma guardi che ce lo vede lei, ce lo sente lei. Ma noi abbiamo parlato esattamente, li abbiamo citati apposta. No, se lei dice antropologico e parla di Campania. Allora, visto capiamo il tipo di le risponde il garante. Se ho capito bene, abbiamo un minuto. Da noi, ma non è così, non stiamo mica facendo degenerazioni razziali etniche. Esatto, Raffaele dice così mettete tutta la Campania. Stiamo parlando di atteggiamenti diffusi in pezzi parti, esatto. Però che sono pezzi parti da guardare con attenzione e profondità, non facciamo finta di niente, ecco, questo è il punto. Dica Romano, prego, per concludere. Allora io voglio dire che non è che si sta criminalizzando interi quartieri, ci sono delle zone a rischio chiaramente, dove andrebbero approfondite ancora di più, come giustamente dice il sindaco e farà il sindaco. Quindi secondo me basta prendere i dati, qui avete un parroco, mi sembra molto attento, che ha denunciato più volte alcune situazioni. Basta prendere i dati dai servizi sociali, dai reparti pediatrici, dalle denunce alla procura, eccetera eccetera, e cominciare a fare un'indagine. Comunque insomma, quello che lei ci tende a dire, non c'è nessuna generalizzazione. Ma guardi, io sono campano, quindi non mi do la zappa sui piedi, però sento il dovere sicuramente, perché il mio compito è quello di tutelare i diritti dei minori, di denunciare laddove non c'è. Ma mi sembra una cosa talmente ovvia e sacrosanta. Ripetiamola per evitare che qualcuno pensi che ci sia una campagna dietro di generalizzazione. No, però affrontiamo questi fenomeni. Cari ascoltatori, non facciamo finta di niente, e soprattutto se ci fosse un maestro di scuola che chiede ai ragazzi, non dategli addosso, perché sta svolgendo una funzione utilissima. Allora ci fermiamo qui, cari ascoltatori. Domani scopriremo se c'è la Brexit o Remain. E noi, tanto i guai nostri resteranno in ogni caso. Io li inviderò sempre. Ma comunque, vediamo domani, dai. Ciao.